po' di danza. Era la voce della scienza, dell'arte, della verità, che c'è, anche se non è detta. Discoteca Kinky, commedia di Rende Cosenza. Domenica pomeriggio 23 ottobre 2005. Discoteca Atmosfera, località Donnici, Rocelletta di Borgia, Catanzaro. Giovedì sera 27 ottobre 2005. Stadsportal Sittard, Stadsvegoto, Sittard, Olanda. Venerdì sera 28 ottobre 2005, Discoteca The Place, Brovehen 8, Nykøbing Falster, Danimarca. Thank you. accelerata, va. M 2 O Musica con lo stato puro. Thank you. Non mi piace guardare con gli occhi degli altri. Posso solo creare ciò che io credo sia la verità. Però M2O, musica allo stato puro.